Musica, devo aspettare che un altro mi giri una registrazione. Ho fatto sempre così finora. Spero si potesse fare diversamente.